fossi yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Siccome mi pare che ci siamo tutti divertiti nei giorni passati a parlare delle capacità di persuasione, della possibilità di seduzione, di quanto le parole, il linguaggio possano essere grimaldelli per scardinare ogni resistenza, ogni vergogna, oggi andiamo avanti nel discorso parlando proprio del meccanismo di emissione delle parole. Poi ci siamo fermati al fraseggio, siamo fermati all'analisi lessicale, alla scelta dei termini, all'analisi delle reazioni posturali del nostro interlocutore. Oggi fermiamo proprio sulla voce. La voce è qualcosa di importante, esistono maniere artefatte per portare la voce, esistono voci indimenticabili. Quante di voi o quanti di voi sono stati sedotti da una voce o colpiti da una voce o hanno seguito il filo di una voce per poi arrivare a una persona che mai non rispondeva poi alle esatte attese che quella voce prometteva? Questa mattina mi è accaduto un particolarissimo aneddoto. Stavo, come ogni mattina, mi sembra significativo, avrei voluto portare la protagonista di questo aneddoto in trasmissione, ma è scappata via. Scendevo come al solito al bar Cinzia dei Passi Perduti, che è il baretto che sta qua sotto la nostra redazione, assieme all'ottimo Intonti e a Cristina Fei, che faceva la traduttrice, e sono incappato in una sorta di nuvola di Chanel rivestita di chiffon con dei sandali da schiava che io non ho potuto fare a meno di notare, ma appena sentito che io parlavo con l'ottimo Intonti mi ha detto: ah, ma lei è quello di Melog, era una melogmane. L'abbiamo trascinata al bar, abbiamo offerto un caffè, abbiamo tentato di portarla in trasmissione, si è ribellata, divincolata e fuggita via nel salone di profumo, non prima di avermi detto che sono rattuso. Io non so esattamente l'esatto significato di questo termine, ma mi sembra che non sia bello. Beh, lì c'era stato un particolarissimo incrocio di una voce che probabilmente non aveva mantenuto le attese e le allucinazioni che aveva evocato in questa signora, e una sensazione tattile, visivo-olfattiva, che naturalmente non ha avuto modo di dare altre sensazioni se non quella di una fuggevole onda profumata. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la fase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Ricordate Alberto Lupo? La voce che ha smutandato generazioni di massaie italiane dagli anni, metà degli anni 60 fino agli anni, seconda metà degli anni 70, questa era del 72. Alberto Lupo era la grande voce della televisione. Ricordo quanti sketch, quanti passaggi nelle serate con Lustrini della televisione nazionale di Alberto Lupo. C'era sempre questo giochino che lui cominciava con la sua voce a parlare d'amore e si venivano a svenire tutte le varie Delia Scalo, Rette Berti, conduttrici del tempo, perché lui aveva una voce che era particolarissima, piaceva. Poi magari a vederlo fisicamente non aveva le dimensioni antropometriche del grande seduttore. Mi ricordo che lo incrociavo i primi anni che bazzicavo i corridoi di Radio Rai e rimanevo molto deluso. Questo signore con i basettoni, col testone, come possibile che tutte impazziscono per la voce di Alberto Lupo? Eppure Alberto Lupo aveva delle emissioni vocali che assomigliavano un pochino al flauto dell'incantatore di serpenti. Era la seduzione d'obbligo. Se allora ci fossero state le suonerie per i telefonini, sarebbero circolate con la voce di Alberto Lupo, come oggi circolano magari con il gattino virgola. Ah, ecco, mi scrive Giorgio, mi traduce: rattuso in slang meridionale chi ci prova in modo pesante con una persona d'altro sesso, allungando continuamente le mani. Assolutamente mai fatto nulla del genere, per fortuna ho testimoni, ma dimostra che in realtà una sorta di allaccio simbolico dato semplicemente dal ricordo di una voce ha creato questa sorta di allucinazione nella signora, che aveva le tette imbrillantinate. Ho soltanto detto questo, c'ha i brillantini, e normalmente mi confondevano lo sguardo, ma questo non significa nulla. Però abbiamo stabilito storicamente, in un'aneddotica di pochi istanti fa, quella che è una catena emotiva sorta semplicemente dall'emissione di una voce. E così un giorno me ne uscii da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. In quei 2 anni ho fatto di tutto. Mi sono drogato, sono stato con le donne, con gli uomini. Come con gli uomini? Tutto. La gente che ho visto morire. A profusione, proprio. Mi ricordo che per le strade di Bombay si contavano più i morti che i vivi. Tornato in Italia volevo riprendere gli studi, ma ormai era troppo tardi. E fu allora che dissi: Manuel, fatti da solo. E così andai a Parigi a fare il cameriere. Lì chi ti incontro? Una donna bella, ricca, importante. Solo che lei aveva il vizio di bere. Lei e quell'altro amico suo lì. Quello Richard Burton che mi è sempre stato qua. Richard Burton? Richard Burton. Faceva una gara a chi beveva di più. Poi una sera Burton mi vomita sulla moquette del salotto. E quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Non ci ho visto più. L'ho preso e l'ho buttato fuori di casa. Ma certo che la vita sua è veramente un'odissea. Ma quella storia del cargo liberiano, piuttosto la Liberia dov'è, al nord o al sud? 800240024, l'avrete capito, oggi parliamo della guerra sporca, le armi letali per sedurre, turlupinare, intortare. Tirate fuori anche voi il Manuel Fantoni che è in voi, il personaggio che diventa il mito del giovane Carlo Verdone, che mostra la seconda fase, dopo quella dell'uso malandrino, l'uso invasivo, l'uso volontariamente scardinatorio della propria voce, la grande chiave è quella dell'automitizzazione del proprio passato. La propria biografia infarcita di elementi fantastici, di elementi romanzeschi, unita a una voce portata volontariamente a colpire le parti più sensibili del proprio interlocutore, diventano un'arma letale. Ecco, quanto siete stati vittima di persone del genere? Quanto vi è capitato di trovare questi simpatici birbanti, che in realtà sono terrificanti estirpatori di fiducia, spaventosi demolitori di resistenza? Poi non semplicemente, non solamente dal punto di vista della pudicizia, della tenuta fisica, del cedimento alle delizie carnali, ma anche semplicemente sono capaci di sfilarvi il portafoglio, di farvi firmare una polizza, di portarvi via casa, mutande, figli, moglie e qualunque cosa. Qualunque cosa si può fare con una persona che costruisce ad arte una propria figura per essere seduttore e quindi per rubare la fiducia degli altri. Dai Bruno, andiamo a letto, ma cosa fai col cappotto? No, addosso? Ti volevo parlare proprio di questo, guarda. Ecco, no, vedi, guarda, siccome questo cappotto, se ci fai un piccolo urlo qui, siccome non va più de moda, oh, allora io posso ma anche... Ti sembra il momento di provare il cappotto? Eh? Stai così bene nudo, amore, dai. Lo credo. Bruno, dimmi qualcosa. Sì. Senti. Sì. No, dico, mi è presa una voglia. Sì. No, mi è presa una voglia. No, volevo dire, ho come un cerchio alla testa. Lo faccio passare io, dai. No, ma mi è presa una voglia tutto un botto, una voglia dei due filetti di baccalà. È che tu li fai così bene, io non te l'ho mai detto, però sarà la pastella, non lo so quello che ci metti, il burro. O forse saranno le uova, io ho pensato che possano essere le uova. Ma Gabri, il momento è grave. No, dico, nella misura in cui il prezzo delle uova ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Siete voi con questo è un altro esempio in cui la aggressività o la capacità seduttiva, quando è esercitata in realtà da una persona di sesso femminile, può essere un elemento deterrente. In questo caso è il mitologico Febbre da cavallo. Gigi Proietti, in fase di perdita alle corse, naturalmente perde anche la sua capacità virile e quindi finge di essere interessato a tutt'altra cosa, quando Catherine Spack vorrebbe naturalmente con lui avere un appassionato momento di amore. quindi sposta l'attenzione sul filetto di baccalà, sul prezzo delle uova, sui grandi problemi. Ma anche in questo caso c'è un uso sapiente comunque di alcune tecniche seduttive, al quale corrisponde una altrettanto artefatta maniera per spostare l'attenzione. Per Luigi devo dire che con grande delicatezza, tatto e sensibilità mi specifica che il termine rattuso, dice, non voglio scatenare la discussione, ma rattuso per l'esattezza vuol dire vecchio bavoso, dando una botta di fiducia, ma vi assicuro che non c'era nulla di tutto questo. Però è interessante vedere quanto un incontro per le scale poi possa scatenare un'infinità di interpretazioni. Torniamo sull'esempio per cui ci sono delle persone che hanno a disposizione in realtà delle vere e proprie armi di distruzione totale. Sapendo usare con maestria, con arte e con anche molta gigioneria lo strumento vocale, riescono ad ottenere, quindi giocare con questo strumento, risultati sorprendenti. Uno dei grandi personaggi dell'immediato passato, che era molto consapevole delle sue capacità vocali, della sua missione, del potere della sua voce, che era molto più convinto di poter usare in toni alti, drammatici, quando in realtà era la sua vera cifra, secondo me, è quella del grottesco, del comico, del divertente, della facezia, è Gassman. Alessandro Gassman, quando era al culmine, diciamo, della sua carriera, poteva essere talmente sicuro. Scusate, ho citato impropriamente il figlio, ma in realtà è il padre. Quando era talmente sicuro la sua voce, tanto che poteva usarla con indifferenza anche per leggere il menu di un ristorante. Gassman legge il menu. Primi piatti. Rigatoni con pagliato, lire 7.000. Pasta e fagioli, lire 5.000. Secondi piatti, rognone trifolato, lire 6.000. Spigola arrosto, secondo quantità. Dessert, frutta fresca di stagione. Torta della nonna, tiramisù. Servizio incluso. In aggiunta al menù, giovedì gnocchi, sabato trippa. Certo, se qualcuno avesse detto a Vittorio Gassman qualche anno fa che nella memoria il nome del figlio sarebbe sovrapposto al suo, probabilmente lo avrebbe strangolato nella culla, però in realtà è proprio così. Viene prima di dire Vittorio Gassman, Alessandro Gassman. Questa è una legge naturale. Devo dire che mi interesserebbe molto capire quante, soprattutto le ascoltatrici, hanno nel corso della loro esistenza ceduto per un attimo o avuto la tentazione di cedere di fronte a un uso sapiente, a un uso da maestro dell'emissione vocale. Quanti sono sentite improvvisamente prese e portate al di fuori della loro capacità di resistere o di essere lucide semplicemente da una voce. Perché lo strumento vocale è così importante? Perché delle voci possono arrivare così profondamente a scardinare quelle che sono le giuste maniere di tenuta o le giuste tecniche di tenuta di una persona? Perché ci sono scuole di voce? Perché c'è gente che insegna come portare la voce? Perché ci sono persone dotate che hanno voci molto particolari e riescono ad essere convincenti, anche se in realtà la crisalide che ricopre quella voce, l'anima che dà spirito a quella voce, non ha nulla a che fare, ma è semplicemente una capacità di essere melodiosi attraverso la voce, di avere una voce che riesce a procurare sensazioni che può dare immediati risultati, tanto che ci sono professionisti che mettono in commercio insidiosi manuali per chi vuole usare la voce oltre le sue possibilità di sedurre il prossimo. La voce è uno strumento fondamentale per avere successo. Migliorando la tua voce, la tua vita cambierà veramente. La sfiori, senta la delicatezza del velluto. Si inebri del suo profumo avvolgente. Cari uomini, ancora non avete capito che la passione di una donna non si sente con le orecchie, ma con il corpo, che quasi silenziosamente, come per racchiudere un istante tanto intenso, si irrigidisce, per poi abbandonarsi appagato, sotto o sopra di voi, o come meglio è stato. Quello che avete sentito incorniciare il messaggio di una nostra ascoltatrice è Ciro Imparato. Ciro Imparato è un professionista della voce che, oltre a fare il doppiatore da 20 anni, fa anche corsi dove insegna a usare appunto la voce, che sono un po' come, secondo me, andare a scuola di un'arte marziale o andare al poligono di tiro. Ultimamente Ciro Imparato ha pubblicato un libro, Sperling e Kupfer, La tua voce può cambiarti la vita e farti raggiungere ciò che fino ad oggi ti sembrava impossibile. Ciro Imparato, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi, grazie di questo invito. Non sapevo di aver fatto una cosa tanto pericolosa, ma ho idea che sto per rendermene conto con questo programma. Io ho nelle mani, con grande timore, il tuo manuale e temo che tu, se darai qualche istruzione a questa radio, potrai creare dei grossi problemi. Però accetto il rischio e quindi sono d'accordo nel farti tranquillamente dire quanto la voce può essere importante anche per scardinare resistenze altrui, anche per convincere, anche per andare oltre quella primo barriera di riserva che una persona tiene sempre come salvaguardia rispetto al tuo prossimo. Quando sei accorto te innanzitutto di avere una voce che potrà diventare un valido strumento di lavoro? Ero innamorato perdutamente di una ragazza quando avevo 15 anni che faceva come me la prima ragioneria. E io avrei fatto qualunque cosa per riuscire a essere guardato da questa persona. Ero molto timido, tra l'altro, a 14 anni. E un bel giorno lei mi disse: senti, tu, io ti devo dire una cosa, tu hai una voce che potrebbe fare della radio. Hai una voce che potrebbe essere quella di un DJ. Bene, io in quel momento mi ricordo che cercai per mari e per monti una radio che accettasse di farmi condurre anche soltanto per 2 minuti un programma, annunciare un disco pur di avere una registrazione da far sentire alla mia amata come fosse stato una serenata o un mazzo di 50 rose. Ed è in quel momento lì che debolmente cominciai ad affacciarmi a questo mondo che poi mi porta e mi ha portato anche oggi a considerare appunto la voce come uno strumento fondamentale, forse uno dei più importanti che noi abbiamo per comunicare e per vivere bene. Senti Ciro, poi entriamo nell'aspetto didattico, perché io vorrò tenerti ancora un po' di tempo dopo le informazioni dalla borsa. Primo, per spiegarmi tutte le varie coloriture della voce. Tu fai una specie di test che è quasi capace di dare delle indicazioni sulla personalità e sul punto di tenuta delle persone semplicemente sentendo la voce. Ma solo velocemente, tu, oltre l'aspetto professionale, se puoi dirlo, se vuoi dirlo, se le tue situazioni familiari lo permettono, ma quanto ti sei reso conto che la voce in realtà può andare molto oltre dell'aspetto fisico, della capacità di possesso e di ostentazione della propria capacità d'acquisto e via dicendo? Ma guarda, la voce ha una potenzialità infinita, perché la voce, come ben sappiamo, e non è che lo sappiamo perché qualcuno ce l'ha detto, lo sappiamo perché lo proviamo, l'abbiamo sentito sulla nostra pelle. La voce comunica delle emozioni che sono quelle dell'inconscio, sono quelle della seduzione in senso reale, ma non perché uno voglia essere seduttivo. Non si è mai seduttivi quando si studia la seduzione. Tutte queste cose per essere più seduttivi, adesso fai la voce che sedurrà. In realtà la seduzione è un fattore, è un elemento collaterale, cioè una persona che seduce seducendo perché vuole, perché nel momento in cui recitasse la parte del seduttore, ecco che ovviamente diventerebbe una marionetta, uno stereotipo del seduttore. Sì, che però tutto sommato ancora a qualcuno fa colpo e fa abbastanza specie, anche chi usa gli strumenti della seduzione in maniera proprio come sembra fossero letti da un manuale. Ci sospendiamo per un istante con Ciro Imparato, mi raccomando telefonate 800 24 00 24 che sarà capace, ascoltando la vostra voce, di farvi un verdetto se appartenete alle voci gialle, voci verdi, voci blu, voci rosse, e poi vi spiegheremo anche cosa significa. Melog 2.0. Quando abbiamo conosciuto una persona, quando abbiamo generato un sentimento di fiducia, a quel punto, per farci ascoltare, occorre che diamo l'idea di sapere cosa stiamo dicendo. Una voce in grado di comunicare un concetto in maniera seduttiva, in maniera piacevole, ottiene sempre dei risultati. Ti spiego questo, tu mi piaci tantissimo, capisco che con te può nascere qualcosa di serio e di importante. Okay. Capisco anche che a volte nella vita uno deve prendere delle decisioni, che sono decisioni che possono fare anche male. Ti renderai sicuramente conto che il modo in cui parla e in cui comunica è affascinante, coinvolgente. Si tratta molto probabilmente di una persona che avvicina. 800 24 00 24. Devo dire con grande dolore, però non posso fare a meno per onestà, di segnalare le tantissime interpretazioni del termine rattuso. Qualcuno ha riferito alla mia persona questa mattina, ma scherzando, che certo non mi fanno molto piacere. Mi segnala un ascoltatore, la voce Wikipedia: si definisce rattuso in lingua napoletana, più le volte volgare, la figura di uomo di mezza età che cerca di mettersi in bella mostra nei confronti di ragazze poco più maggiorenni. Beh, la signora avrà avuto fra i 40 e i 50 anni, questo devo dirlo onestamente. Poi un altro mi dice, aspetta, ancora, beh, un SMS ancora più crudele, capito? Dove sta? Dunque, rattuso di solito è, dove sta? Era terrificante, dice, comunque un vecchio bavoso, spesso impotente, che dà fastidio alle ragazze, qualcosa del genere. Tornando comunque all'argomento, alla nostra trasmissione, stiamo ragionando di quanto la voce invece possa essere strumento di rattuseria, se vogliamo chiamarla così, quindi strumento di seduzione, di scardinamento delle resistenze o di tentativo comunque di andare oltre le volontà di un'altra persona. Abbiamo sentito nel pezzo che mi ha preceduto due scuole di pensiero diverso. L'una, quella di Ciro Imparato, autore della Tua voce può cambiare la vita, Sperling e Kupfer, che è un doppiatore che ha messo insieme un manuale, che è una sorta di manuale di guerriglia di come usare e confondere il prossimo attraverso la propria voce. E Ciro Imparato lo sentiremo tra un istante. Poi lo abbiamo intercalato, almeno Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni l'hanno messo in contrasto, con una seduzione da tronista, che sembra usare tutt'altro strumento. La rappresentazione televisiva della seduzione sembra non rispondere più ai canoni classici. Se noi finora abbiamo detto che una voce ben modulata, consapevole della sua potenza e capacità di andare oltre la spessa corazza della resistenza del nostro prossimo, può avere risultati sorprendenti, il tronista non è per nulla preoccupato da questa fattispecie. Il tronista gioca le sue armi di seduzione nella reiterazione di alcuni modelli che la televisione stessa celebra, fortifica, propone e ripropone continuamente. La forza del tronista è essere la rappresentazione esteriore di un quacervo di stereotipi, dal tatuaggio, dal fisico scolpito, dal capello particolarmente artefatto, ma soprattutto da un radicale disprezzo per le persone che avanti, da un senso di distanza, di sufficienza, che probabilmente è un'irresistibile arma di seduzione nelle generazioni contemporanee, ma che poco ha a che fare con ciò di cui stiamo parlando. Ciro Imparato è ancora in linea? Assolutamente sì, Gianluca. Ecco, è molto vero quello che stavi dicendo, e c'è un motivo specifico per cui è facile imitare un tronista ed è più difficile imitare Vittorio Gassman. Perché se noi vogliamo fare un tatuaggio, basta andare in uno dei 50.000 luoghi dove fanno tatuaggi e anche noi avremo il tatuaggio del tronista. Se noi vogliamo avere un nuovo orologio, un nuovo vestito, basta andare nei 50.000 o 100.000 negozi o anche di più dove vendono quell'orologio, quel vestito, quel profumo. E noi, comprando quei prodotti, cercheremo di essere anche noi belli, seducenti, seduttivi e molto simili ai nostri modelli. Ciro, però sulla voce si può fare qualcosa. Cioè, la voce è tale quale come ci si nasce. È proprio questo il punto, Gianluca, che la voce si può cambiare con un metodo assolutamente semplice che si chiama Four Voice Colors, che è contenuto all'interno del libro appunto di cui parlavi prima, E soprattutto nel momento in cui la voce viene cambiata, viene modificata, perché la voce è soltanto un fatto di abitudine, di come siamo abituati a utilizzare i muscoli della fonazione, quindi i muscoli della lingua, della bocca, come respiriamo, queste cose qui. Quando noi cambiamo il modo in cui pensiamo la voce, diventiamo incredibilmente più sicuri di noi stessi, perché ogni volta in cui parliamo è molto semplice, le persone ci ascoltano con attenzione. Fatti ascoltare una volta, fatti ascoltare due, guarda una persona col tuo profumo e col tuo tatuaggio e dà anche la voce giusta, tutte le sere ti porterai a casa, se vuoi, e se questo è il tuo interesse, se la tua vita scorre su questo obiettivo, ti porterai a casa tutte le sere una nuova conquista. E quindi vedi, chiaramente hai gettato anche se l'ultimo baluardo di pudicizia, dici questo è un manuale di scardinamento delle resistenze altrui, è chiaro. Senti, posso fare una prova? Ci sono un po' di ascoltatori, sono incuriositi, sì, dal fatto che io ho detto tu puoi analizzare la voce e dalla voce dare alcuni suggerimenti, in particolare Enzo da Padova. Enzo, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Nicoletti. Enzo, lei vorrebbe essere sottoposto al test Ciro Imparato? Io vorrei, sì, sarei curioso. Perché con la sua voce non riesce a fare una mazza, naturalmente, se no non No, non è quello. Sono solo curioso del fatto di sapere com'è la mia voce sentita da un'altra persona, ecco. Ciro Imparato, autore della tua voce, può cambiarti la vita. Enzo a tua disposizione, fagli tutti i test che vuoi, vediamo se possiamo dare qualche briciola di speranza a questo ascoltatore. Allora Enzo, prova a dire una frase che diresti, diamoci, facciamo prima, ci capiamo come se fossimo, come dire, insieme in un posto in cui stiamo lavorando sulla tua voce, come faccio di solito tutti i giorni. Prova a dire una frase che tu diresti a una donna, una persona che ti piace, per conquistarla. Lei non è lì, non ti preoccupare. Molto simpatica, sì, già se n'è andata a questo punto. Carina. Di semplicità mortale, vero? Beh, cominciamo, come dire, se è un po' complesso dirla, magari scrivila e poi la leggi se abbiamo il tempo. Oppure inventa, tu vedi bellissime, dici ascolta, ti sto guardando e i tuoi occhi mi hanno fulminato. Sì, ma poi guarda Ciro, ti dicono Rattuso, come è successo a me questa mattina. Lo so, ma questo è il problema. Lo so il rischio. Allora, mentre Enzo riflette sulla voce e sulla frase che può cambiargli la vita, sentiamo una donna, Maria da Torino. Maria, buongiorno. Buongiorno, sono Maria, comunque, come Aria con una M davanti, una versione, cioè, slava. Oddio, non è che... Oh, benissimo, posso già dire da subito che Maria ha una bellissima voce blu. Maria, bello, lei la voce, grazie, blu. Grazie, adoro il mare. Senta, io il mio intervento sarebbe molto breve, ci tengo moltissimo per mettere in rilievo, visto che voi avete un grande numero di ascoltatori, che io sono innamorata del nostro, dico nostro perché sono italiana ma nata dall'altra parte dell'Adriatico, premio Nobel Ivo Andrić, che ad un certo punto dice una cosa bellissima, dice la voce è la parte invisibile della bellezza umana. È assolutamente vero, perché io aggiungo, mi permetto di dire, vivo a, sì, Torino, è una città bellissima, elegante, reale, regale, tutto, ma è come una donna stupenda dietro la quale si girano tutti, ma quando apre la bocca nessuno l'ascolta. Questo è anche, ho capito, l'attribuzione a delle città, delle città che di personalità, non hanno abbastanza l'anima per poter partecipare all'umanità, al cosmos, non so. L'autore che lei ha citato, sì, non ci sovrapponiamo troppo, l'autore che lei ha citato è Ivo Andrić, premio, sì, sì, Nobel 61, sì, il Ponte sulla Drina è un indimenticabile suo romanzo, se non sbaglio, quindi è un autore che anche mostra molto la crudezza comunque di quello che racconta e di quelle terre, ma l'insieme di una storia fatta appunto di levità e di crudezza è quello che dà il tono, dà il senso alla voce della città, alla voce del tempo. Ma perché Ciro hai detto che Maria ha una voce blu? Cosa significa una voce blu? Perché le voci si caratterizzano per quello che trasmettono fondamentalmente. La voce di Maria, giusto? Sì, Maria. La voce di Maria è una tu che nel metodo Four Voice Color è caratterizzata da una caratteristica di autorevolezza, di capacità di scandire bene le cose che dice, di farsi ascoltare con molta attenzione. In questo momento io, ad esempio, sto parlando con una voce blu con la quale spiego quello che sto dicendo a un pubblico, sostanzialmente. La caratteristica bella della voce blu è quella di ascoltare molto. La caratteristica, invece, che bisognerebbe migliorare di una voce blu è che crea un po' di distacco, tant'è vero che noi tutti dovremmo avere più voci a disposizione. Una voce blu, giustamente, quando parliamo magari in radio, come in questo caso, per poter dire con precisione quello che diciamo, e poi magari anche una voce per poter riuscire a parlare. 800 24 00 24, dopo le informazioni dal traffico, sentiremo come sia possibile avere una cartucciera di voci colorate per ottenere lo scopo, come abbiamo capito tutti, quale esso sia. Siamo slittati velocemente dall'uso dello strumento alla voce all'analisi delle varie coloriture della voce secondo il metodo di Ciro Imparato, che attraverso le coloriture della voce e attraverso la capacità di saper cambiare colore alla propria voce si può avere sempre a disposizione un'arma carica pronta a colpire il bersaglio. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Anche lei sarebbe curioso di farsi analizzare la voce? Faccia sentire la sua voce, perché soprattutto sente il bisogno. Allora, prendendo spunto da quello che ha detto il signore prima, se io dovessi trovare una signorina particolarmente affascinante, io le direi queste parole qui. Ciao, non so che cosa mi sia accaduto, ma quando ho visto i tuoi occhi mi hanno illuminato il cuore. Bene. Ciro Imparato. Assolutamente. È una bellissima dichiarazione, ma ancora una volta noi siamo abituati a pensare alle parole e non a pensare al modo in cui pronunciamo queste parole. Quindi, scusami Ciro, basterebbe leggere l'elenco telefonico con una voce ben colorata e sarebbe lo stesso effetto. Te lo faccio sentire. Sì, dai. 747, 42, 59, 54, 7, 14, 740, 47, 52. Abbiamo al telefono 49. Anna Maria. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Che sensazione hai avuto sentendo Ciro Imparato che legge l'elenco del telefono? Guarda, mi sono sentita catapultare alla mia infanzia quando ascoltavo Alberto Lupo e mi procurava una emozione a cui io non riuscivo a dare ancora un nome. Ancora adesso, quando guardo qualche vecchio filmato con Alberto Lupo, sento quell'ansia sottile, ancora senza nome. Allora c'avevo ragione quando dicevo che era lo smutanda massaie degli anni 70. E anche delle fanciulline che ancora non sapevano come succedono certe cose, però lo intuivano, perché c'è una voce segreta che ti chiama e che prima o poi esplode nella vita. Anche nel mio caso, perché io non ho avuto un'educazione da seduttrice e non sono mai stata educata alla seduzione, però poi a un certo punto... Nulla ti impedisce di essere sedotta, però. Ecco. Oh sì, e di trasformare l'essere sedotta in uno strumento di seduzione. Perché alcune storie che ho vissuto sono diventate racconti e mi capita di farli leggere e di sedurre attraverso quelle parole. È tutto un giro bellissimo, virtuoso. Quindi diciamo che le voci maschili all'Alberto Lupo stimolano i tuoi sensi si trasformano in letteratura. La bellezza sicuramente. In letteratura, e la letteratura a sua volta diventa supporto di istigazione sì. Amorosa. Beh, meraviglioso questo giro. Sentiamo Maria Claudia. Maria Claudia. Buongiorno. Rispetto a quello che ha detto la sua collega ascoltatrice. Ma io volevo stendere un velo pietoso sui cronisti, perché sono, direi, un prodotto del nostro tempo che spero passi velocemente. Non appartengono generazionalmente alla nostra generazione, quindi no, probabilmente... Io ho 56 anni, quindi assolutamente no. Però penso che sicuramente l'ascoltatrice che mi ha preceduto ha perfettamente ragione. Io aggiungerei un piccolo valore aggiunto però per quello che riguarda il discorso della voce relativamente in quanto donna alla voce che ascolto da un uomo. Che la voce non è tutto, è sicuramente molto importante, però quello che a me affascina è insieme a una voce lo sguardo, e non dico il colore dell'occhio perché è assolutamente non importante, ma quello che trasmette, quindi questo connubio voce con uno sguardo particolare. Possono essere anche poche le parole, che secondo me ha un fatto. Ma cosa arriva prima, però, secondo lei? Arriva prima la voce o lo sguardo? Beh, certo, se la persona parla arriva prima la voce, però io in una persona guardo, sì, lo sguardo, quello che mi affascina è lo sguardo insieme alla voce. Allora, Ciro, la prima ascoltatrice, Anna Maria, mi scrive su Facebook, che ha appena parlato, ma è collegata anche in maniera telematica, vuole sapere di che colore sia la sua voce. E questa seconda ascoltatrice probabilmente vuole anche essere sottoposta allo stesso tipo di test. Ci dai due colori delle voci delle due ascoltatrici? Assolutamente. Anna Maria ha una voce verde tendente al rosso, una voce molto dolce, molto seduttiva anche. E tra l'altro molto interessante questa cosa di sedurre le persone, le parole che diventano racconti. La seconda ascoltatrice dice il giusto, è verissimo, lo sguardo insieme alla voce ad avere importanza, a farsi capire e a comunicare l'emozione. C'è però una cosa alla quale non tutti pensano, che se noi chiudiamo gli occhi la voce arriva, quello che vediamo no. Se noi chiudiamo gli occhi spariscono i vestiti, spariscono i tatuaggi, spariscono gli orologi, rimangono i profumi e rimangono i suoni. Sentiamo, sono Ciro, quelli che arrivano direttamente all'inconscio. C'è un test singolare, Jacopo da Parma. Jacopo, buongiorno. Buongiorno. Lei vuole un test della sua voce? Chiamo perché ho una voce un po' particolare, nel senso che vengo sempre confuso. Confuso in che senso? È confuso nel senso che vengo a volte mi considero una ragazza, a volte una... Anche a me al telefono mi dicono signora tante volte, mi succede tantissime volte. Anziana, e poi mi dicono tutti che dal vivo è completamente diversa. Allora Ciro, come mai ci sono persone, me compreso, che molte volte al telefono ci dicono sì signora, adesso glielo passo? Non il tuo caso non direi, non mi sembra, è una voce molto identificativa e di estrema cultura, cioè arriva proprio dalla tua cultura prima di tutto. Sì, ma il tono della voce, il timbro, come anche Jacopo, molte volte siamo confondibili al telefono a voci femminili. Perché nel caso specifico di Jacopo io sento una tendenza a un tono acuto e a un forte sorriso costante. Allora il sorriso è una componente fondamentale della voce, perché se io sorrido anche con una voce bassa arriva un messaggio di pace. Ad esempio in questo momento sto sorridendo con una voce bassa e quindi arriva un messaggio bello, simpatico. Ecco, nel suo caso invece però il sorriso è abbinato a una voce tendenzialmente acuta, il che fa pensare a una componente femminile, perché nello stereotipo, nell'immaginario collettivo, la donna, tra l'altro la donna che vorremmo incontrare, ha una voce tendenzialmente acuta e tendenzialmente sorridente. Quindi deve lavorare sui bassi. Posso farti sentire soltanto due ascoltatrici, ma velocemente, le dare soltanto il colore. Cinzia da Milano, visto che ci tiene molto. Cinzia. Sì, pronto, buongiorno. Fai sentire la voce, di qualcosa, così poi ti... Allora, io svolgo il mio lavoro prevalentemente al telefono e quindi mi capita di ottenere degli ottimi risultati solo dovuta alla mia voce, ma mi viene anche detto, ah, ma lei signorina ha una bellissima voce. Quindi acchiappi con la voce. Come, scusi? Acchiappi con la voce. È quello che mi si dice. Ecco, Ciro, come mai questa signora? Sentiamo questa signora, Ciro ti dirà che tipo di colore hai e perché la tua voce ha questo potere di sedurre. Ciro, velocemente una battuta. La voce di Cinzia è tendenzialmente blu, quindi una voce autorevole, ma c'è ogni tanto una punta di rosso e di sorriso che lasciano trasparire un avvicinamento, e niente ci seduce di più di una persona autorevole che si lascia avvicinare. Grazie, ecco Ciro. Quindi la voce di Cinzia ha delle sfumature violacee, viola è un colore che va molto di moda in questo momento, quindi Cinzia è perfettamente trendy. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.